panettone. E se riesco a venire le porto un panettone. Giusto che mangiarne un po' assieme. Ma è la Federica? Sì, io non l'ho visto. Ah. Quando è venuto me l'ha messo sul corpo. E abbiamo parlato di lei, come andava, come era andata, io l'ho messo che adesso lei non si muove. E così però lo apro a lei. Vuoi mangiare un po' di salato prima? Prima sì, dai, mangiamo un po' di salato. Sì, sì, sì. Poi ci facciamo. E adesso io già la metto non apro. Lo taglio dentro o fuori? Che farò, faccio un po' di briciole. Oh, tanto è ancora pieno, l'ho mangiato io. Così mi hanno portato da mangiare e... Aspetta, guarda, poi viene un po' di buono. Anzi, no. Questo viene spaldato. Sì, perché gli mettono del burro e se scaldi un sì. po'. Sì. Ma sai, Lina, quando è San Biagio? Adesso, eh? È già andato. Ma è verso il 5. Ho trovato il coltello, ce l'ho. Sì, sì, ce l'ho, ce l'ho. Che bel po'. A Milano? A Natale si mangia il panettone, si tiene un pezzo che si mangia a San Biagio. È la tradizione di Milano. Se non mi veniva a ricordare San Biagio, è già passato? In questi giorni, il periodo giusto. Caro, guardi un po' lì se siamo, ti chiedo, sabato. Febbraio. San Biagio era il 3. E oggi? 3. Era il 3. Sì. Beh, è vicino. Ma è oggi? È il 3 San Biagio. Sì. Ma oggi è il 7. 7. Oggi è 7. Oggi è 7. Sì. Però. Però siamo. Siamo lì. Allora va bene. Va benissimo. Invece Sant'Orso, sai cosa ho fatto a Sant'Orso? È riuscito ad andare? Sì. La prima volta in 30 anni. Che bello che è, Lina, sei mai stata? Mi è piaciuto. C'era pure lui. No, non sono. Ci verrà l'anno prossimo quando andremo a fare il giro delle cantine la sera. È un buon. Allora sì. Ovvio che si divertono. E poi il più bello per qualcuno. Ma sai che sono andato con. Il figlio di Fulvio Vicheri, il grafico, quello che disegna bene, che gestisce il rifugio ARP, quello che... Ma abita a Papua? Oh sì. Abita a Brusson? A Brusson. Sono andato con suo figlio Roland, che è un lontano cugino di Annie Rolandin, sono tutti lì. Vabbè, ma sai cosa mi è piaciuto? Proprio l'artigianato del legno, bello. Cioè, c'erano delle pareti scolpite nel legno di vita contadina. Di Walter Melville. Anche con lì. Cioè, non è una roba... cioè, è commerciale, però ci sono delle cose veramente di artigianato fatte bene. Sì, ma bisogna saper toccare il coltello. Anche per tagliare il pane. No, tagliare il coltello per scolpire. Mi ha capito? Sì. Ma c'è anche del formaggio, lo mangio. Sì, qua c'è il formaggio. Allora, va bene. Siamo preparatissimi. Ecco, lì che cucina quello vicinizzi. Questa è acqua. Questa è carta. Ma ne avevo dove l'ho messo te. È venuta la terra e mi ha portato della carta. Allora, ma bello quel pan. Era vero nero quello. Dove l'ha trovato? Sa bonito. Sì, da Mara. Ma bello, scuro, veramente il buon pane. Vuoi un po' di mollica? No, adesso c'è del caffè che ce l'ha scaldando sulla scuola. Comincio a bere. Siamo se qui sono un po' rotto, ma no, per lo mettere. Tutto male, non sbagliare un altro. Forma. Appena. Fumo appunto fuori. Stia, stia. Questo non si arrangolo un po'. Non proprio sulla testa, quel signore, ma poco meno. Qua. Le galline escono ogni tanto? Oh, mo gli ho dato, avevo avanzato anche, gli ho dato la loro granaglia, ma gli ho dato anche del pane, pane secco. No, io gli do la carta, prima che dia da mangiare, io gli do un pezzo di carta se vuoi, poi quello lo lasciamo scaldare un attimo. E la lince c'è? Che io ho visto un film su una volpe in cui faceva vedere che era cacciata dalle linci. Quando? Oggi? No, ho visto un film. Ah! Sì. E allora chiedevo se c'era la lince qua. Sì, che l'avevano vista su giù. La lince? Sì. I tracci. Certo. Un danno su danni. Ah, la lince, sì, sì. Ma poi adesso quest'anno ce l'avevano che c'è il lupo. Qua. Sopra osso. Ah, questa è quella da bagno sarebbe, ma là è pulita, è nuova. Perché l'avevo. Ah, è lì. Lei dia quel dovuto a quel signore. Poi lì c'è quella che serve per le mani. Ah. Quella è carta, non di questa. Sì, no, ma noi abbiamo le mani pulite, eh? Ma se volevano per tenerlo, è qui che non è pulito. Qualche volta io vado solo questa per pulire le mani così. Va bene. Anch'io. Sai che ci sono tanti paesi in cui si usa la carta igienica, cavolo. Ah, è riuscito tavola. A andare, lo... Vuoi un po' di... Un po' più di pane? No. Allora, per questo dovrei dargli un po' di vino? No. No, mangiamo così. Un bicchiere c'è, vedete il bicchiere assieme, poi... Ce n'è anche uno per Rimma. Il vino... Vuoi un po' di toma? Eh? Vuoi assaggiare questa toma? È buona. Ma picco, già perché l'assaggi? E anche di Mara? Sì. È una toma di Grassonei, ma buona. Questo però è veramente piccolo. Ah, allora di queste stappe si è di nuovo. L'avranno. No. L'hanno fatto solo d'autunno. Ah. Del formaggio un po'. Del resto. Sì, Romina? Hanno sempre. Sì, è solo fatto quando diminuiscono già il latte. Ah, preferisce mangiare prima se lo mettiamo. Uguale, adesso lo teniamo qua, non beviamo. Come avete già camminato? Sì. Ma lei lo faceva tutti i giorni per tornare da scuola. Allora, adesso sei diventato grande. E sei andato in Belgio? No. A Natale. E dove l'hai passato? No, Natale l'ho fatto a Milano e il Capodanno l'ho fatto a Champoluc, ma eravamo troppo con tanti amici, non sono passato. Anche troppi, come fanno qua. Oramai è finito, erano giovani, andava bene, ma adesso papà non viene più per lasciarlo ai figli. E i figli oramai o hanno la ragazza o hanno i figli anche loro. E in commercio la casa è quasi sempre vuota. Ah, qua. Caffè a vino, questa qui. La moda dei un capravaglio. Ma adesso senza zucchero paperina andaria a parte tutta. Ah, l'hai passato in gruppo. Ma in Belgio voglio andare quest'estate. Perché sai che Silvia aspetta un bambino? fossi mia sorella. A maggio divento zio. Ma se gliel'ho sposato? Ma adesso sti bambini vanno avanti che non basta uno, ne fanno due. Il mio cugino, quello del Belgio, aspetta il secondo, quindi devo andare a trovare anche lui. Ah, hai un maschio cugino, figlio di chi? Della sorella di mia mamma, in Belgio. Vede? Vede che avanza la famiglia. È bello. Crescano. Meno male ci pensano i cugini e i fratelli. Oh già, sono giovani e hanno già un bimbo. Ti aiuta poi le nonne, sono poi delle benemeri. Eh sì. Se no, con la scuola, come si fa? Prendi un po' di formaggio se vuoi. No, no, dia pure al signore, perché ho mangiato. Mi ha portato due pezzettini di salame prima di partire. Buono questo. Con l'operaio. E poi... No, ma glielo dia pure a lui, questo più grande. Io assaggio il piccolo. Ah. Che tanto pare sempre quello, glielo dia a lui. Vedi che ha finito. Che buon gusto di formaggio! Buono. Anche il vino è buonissimo, eh? È sempre quello che ti portava Ligio? L'abbiamo fatto appena arrivare l'altro giorno. Me l'ha portato la nipote. Quella di Antagnò, pure di Falerino. E chi? Io trovo che ha tante cose abbastanza buone, amore. Lì va anche a fortuna, magari a volte anche loro, sai, comprano un pezzo, non sanno bene com'è. Ma adesso te ne puoi dappertutto dalla fontina. Altrimenti quest'anno non l'avremmo avuta. Quella di Libia. Ma così hanno un po' meno lavoro. Anche se andare su e giù col latte è un lavoro anche quello. Tanto, è tutti i giorni. Due volte. E poi benzina. La benzina. Ci va un uomo. Dovrebbero fare un consorzio della Valle di Crest, così che uno solo fa la fontina e tutti gli portano il latte. Ah, questo mai. No. Non so, magari Mario fa la fontina col latte di Romina, col latte di... Delfino con latte di Italo. Sì, sì. Così che uno solo si organizza a fare la fontina. Per averne voglia. Di adempiere quello. Sarebbe intelligente, anziché portare il latte giù. Questo qua che porta qua a Francia avrebbe già abbastanza lavoro perché ne ha talmente tante. Abbastanza lavoro solo per le sue. Anche che prendano tutte quelle di più ne ha. Ne viene troppo lavoro. Bisogna organizzarsi. È più facile metterli sulla tempia. La matubù ti lascia il gusto per il buon. Ma vuoi un altro pezzettino? Piccolo. Ma mangio, ma io non ho mangiato. Ma devi crescere. Ma già, ma è qua che devo crescere, non riesco più. Oh, la mamma così mia. Adesso mi hanno detto che mettono su a Brisson un... Oh, adesso non so dire. Voi che siete, mi hanno caseggiato dai medici, dai professori. Mm. Cos'è quello? Un consultorio? Che metto su a Brisson. Una roba di medici? Sì. Ho delle briciole che... Meglio che bevo caffè. Ora... Caffè, quando andavano a lavare alla fontana, di bucato si facevano caffè per notte. E mettevano un chiodo, non piccolo, non un grosso chiodo, ma che mettono alle porte una volta. E quando quel chiodo era bello rosso, allora loro arrivavano, queste signore, e si mettevano un bicchiere così di vino e si mettevano dentro quel chiodo rosso. Di ruggine? Rosso di ruggine, scaldato dalla braccia della stufa. Ah. Così si teneva e caldo? E quello scaldava il vino e dava ferro al sangue. Ma dai. Perché non mi ricordo bene di quello che facevano le mamme. È sicuro? Mamma zie. Non è se mi ricordo che c'è già tanti che mi ha detto l'altro giorno la nipote che hanno fatto domanda di andare a lavorare qui. Ma non ho capito cos'è? L'ospedale? Ma è come un ospedale! Ah. Beh. Ma non so se è più o meno. Formaggio. No, va bene. Giù dove c'è questa della fontina, la casa della fontina, invece sì. Giù di lì. Mm. Oh, quando scendiamo guardiamo. Guarda. Sì, c'è. Ma l'hanno già un po' costruito? Ma mi sembra che mi abbiano detto, non so cosa ci fosse lì. Deve essere vicino dove c'è la casa della fontina, che sarebbe ancora sempre. Sì. Ecco, deve essere di lì. Il papà penso che ci abbia provato tutto, nell'ordine dei medici. Dina, ma come si sta bene a casa tua? Se c'è la stufa accesa, sì, il pane e il formaggio. Buongiorno. La signora. Ma quando nevica ancora. Paura. Quest'anno... Io ne ho vista neve con i miei, ma tanta come quest'anno no. Vabbè. L'abbiamo superato nel 8-9. Poi si dice per gente giovane, ci va con i gatti, ma hanno avuto un... La più grossa paura era le valanghe. Anche perché i gattisti? Cade. E cade giorni e giorni. Ed è leggera, diciamo. Per qualche giorno tutto fermo. Poi pian piano un po' di più ho cominciato a andare un po'. Prima avevamo fatto staffa lì e già meno per colore. E poi abbiamo sparato le mine a Sarazza. Sarazza è terribile quando è così. Però mi hanno detto che... tre volte. Sì. Che la primavera dovrebbe arrivare presto quest'anno, perché a Sant'Orso ha fatto brutto. Lo dicono, Pasqua è presto abbastanza. Sì. Ma sai la leggenda che l'orso, quando è bello a Sant'Orso, esce e fa asciugare il pagliericcio? E allora dorme altri 40 giorni. Eh? Ma l'ha messo. Ma non è proprio il nipote, dice, ma hai fatto caso che Sant'Orso non ha messo a seccare il pagliericcio? Quindi adesso viene la primavera presto. Ma fa prendo. Parte buonura, foresta buonura. Dicono così. E cosa vuol dire? Parto presto, primavera presto. Compra. Buon pane, costa un po'. Invece Eligio diceva, ecco, caffè e vino, veleno fino. Dove? Ma beh, ti prendevano le papà Ernesto, mio fratello, ti prendevano la slitta per farla bene su di lì, che se la preparavano pronta, ammucchiata, poi con la stessa, la slitta del muro, quella slitta così. Andavano poi d'inverno con la neve a tirarsi giù i mucchi, ma allora Ernesto, che era poi il capo, diceva che per essere bravi, forti, per tirar giù quelle grosse cariche bisognava caffè e vino, ma anche caffè e brodo. Brodo e vino. E caffè e vino, come secondo l'operaio preferiva. Erano le due cose come più nutrienti che davano più forza. Anche ai muli si dava. E qualcosa bisognava brudare anche ai muli. Da qua a Cresta. E portar su lì dove c'è l'aquila quasi. Pane e vino. Ah, oh, chi ne avesse già un po' su ti? Poi pane e vino. Supa dell'ano. E così diceva Eligio, eh? Poi Eligio me ne raccontava tante che non so quali erano giuste e quali erano sbagliate. Ah, ma ti hanno lasciato tempo tutto con. Oh, mancato un pezzo. Quest'anno c'è stato poco a Natale al Cresta. È venuta, come si chiama? Melina. E poi mi aveva telefonato da Bologna che forse sarebbe venuta, che a Natale andavano giù i suoi. Poi non veniva a Natale, ma sarebbe venuta dopo a fare un giro. E forse qua è venuto, ma io dopo pronto vado a letto un po' e non mi trovo. Ieri era venuta a terra, ieri l'altro. Terry? Ha portato a sciare i bambini già. Sono già grandi. E allora, però i bambini non li ho visti, andavano a mangiare al rifugio. E lei è venuta? E lei giù, saranno stati stanchi, è andata giù. Li ha portati giù, lì. Funivia. Allora apriamo Io ne passi ancora se vuole il signore, un paio come siete le coppie. Non so, vuoi un po' di pane? No, beh, sono a posto. Cioè, a posto, no? Non si preoccupi. C'è il pane? Io non so le vostre... come sarebbe a dire, come avete programmato? Noi non abbiamo programmato. Niente. Non facciamo... Quindi ci devi cacciare via di casa. Il panettone, come l'ha chiamata? Quella che ha offerto il panettone. Federica. È bello il nome, Federica. Oh. Ma spero di rivederla, non so se la riconoscerei. Allora... Però so dove abita, abita sopra la farmacia. Ah, in quel condominio. È in un condominio grande. Perché mi aveva detto l'altro anno, perché aveva ancora il papà e la mamma, e sa che scendendo di qua, andando un po' nel bosco così, e andando, vai a finire sulla strada delle macchine, e scendendo di qua, poi giri per così, andando su questa strada che va sull'altra strada, sulla vera strada nazionale, c'è poi questa farmacia. E lei mi ha detto che abitavano in un condominio come lungo per così, ma basso, non tanto alto. Il condominio, sì. E che abitava lì la mamma. Quando magari lei stava qua un po' di tempo, qualche giorno, così. E allora c'era poi anche il papà. Perché il papà è morto nel Seppi, forse, quando era andata via di qua. Questa ragazza io l'ho vista una sola volta, però l'avevo incontrata in un rifugio delle piste dove gestito da Tiziano, che era uno che conoscevo. E questo qui ci ha detto subito, hai trovato il cavaliere, hai trovato la donzella, ha fatto tutto lui. Adesso uscite insieme, mi portate i sacchi da spazzatura giù, la ricettrice ci ha ricamato sopra tutta una storia. Allora io l'ho portata a incontrare la Dina. E la Dina ci ha messo pure del suo, hai portato la donzella, ma che bravo cavaliere, ti. Allora sembrava quasi che fossimo già insieme da... E poi non l'ho più rivista. Già, ma però mi chiedeva a chiedere. Donzella, un po'. Adesso la chiamerebbe già dottoressa. Donzella. Adesso vi conoscete già un po' di più, allora si permetto. Vabbè. Ma è bello, no, per conto mio mi è sembrato bello, ma molto giovane quel ragazzo che ho assieme. Ma non so se lei ha un po' paura, io non ho poi messo fiato di quello, tanto lui non lo conosco niente. Sembrava quasi avesse paura che questo qua volesse fermarsi in Belgio. In Francia, ha detto lui veramente. Ma perché era francese? Che voleva fermarsi giù, o come si dice in Francia, non so io là. E lei, no, viene poi. E non li ha visti quella volta? Penso che sia salita, forse a piedi, quelli sì. O è scesa dalla funivia, quelli sì. Ha posato il panettone, era presto. E se n'è ripartita, sarà scesa di nuovo giù ed è poi tornata su. a piedi. Ormai l'ho persa, però era insieme a quest'altro ragazzo, basta. Ne fa proprio un altro. È un cambiatore. Io? Sì, è come cambiare un pezzo a un pantalone. No, vabbè. Magari. Scanzone. È stato così. Adesso, no. Chiudo sto pane. E formaggio buono, se quel signore mi abbassa, aiuta, faccio come vuoi. E dopo mi vive d'aria. Io metto lì il panettone e te con un bel coltello e lei lo taglia. Vai. Vai. Prendo? Prendi tu? Prendo io. Ho qua. Vuoi tagliare tu? No, lascio il grano. L'onore. Ah, bisogna metterlo sulla stufa da 2 minuti, eh? Ok, io l'ho già avvicinato. Ecco cosa fa lei. Eh sì. Diventa molto più buono. Ecco, meno male che abbiamo la stessa idea. Oh! Adesso si muore rito perché io sarà passato un mese o di più a Mattoni. E di più? Io non tanto è stata convinta che quel panettone non posso mai, ma un altro, invece... Ma Dina non te l'ho mica portato io, Non lei. Ah. Parlando della dottoressa. Ma dottoressa sono obbligata, perché me l'ha detto. Allora, io ho dovuto, non ho potuto dare altri nomi ad altri. È buono, eh? La marca sarà buona. Sì. Perché la casa e se era già suo padre. Oh. Avrà fatto le cose bene. Adesso. Non è tanto semplice. E la volta migliore non poteva venire. Ma ah, no. Sei troppo buona. No, perché è solo lei che la conosce. Non potevo mica far. Vabbè, allora senti, questo lo berrai con la Federica. Ma cos'è quando la vedo? Già che sarebbe bello. le dirò. Ma d'estate verrà una volta. Cosa ma dice? Secondo me se le piace sciare tornerà, quest'inverno. Non so se ho tempo perché sapente ma già i dottori per studiare medicina adesso è già che va sempre in ospedale. Ma a me è duro. È vero, è vero. Sì, mi lasci poi il suo parere. Ho capito? Il parere? Del panettone? Sì, del vino. Panettone adesso ognuno mangia quello che vuole. E del panettone se vuoi. Io metto il piatto sulla stufa? Mettiamo un momento, tanto è già un po' crepò. Adesso è caldo, eh? Sì. Non ci metterebbe le dita lei? No. Ah, dimmi come si chiama il suo amico là. Io? Mi chiamo Fabrizio. Fabrizio? Sì. Fabrizio è uno che viene anche al cliente. Ma quest'anno anche quello è stato male. C'è stata tanta influenza. Quanta gente è stata poco bene. Ma si dovevano venire qui per guarire. Ma chi gli ferma il passaggio? L'ho già tagliato, eh. Ah, è tutta fetta, è pronto? Sì. Oh, ma come bravo quel ragazzo.